Assomiglia un po', eh? A cosa? Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Vabbè, adesso però non puoi dire che è presto per parlare di Natale, perché oggi è il 20, lo quindi so. mancano 5 giorni. No, 5 giorni e non abbiamo ancora comprato i regali. Lascia perdere che io cerco di non pensarci, però prima o poi arriverà il momento. Sei sempre lì a dire non è ancora Natale, non è ancora Natale, lo so, non fa è ancora Natale, così, poi arrivano i giorni decisivi, non hai ancora comprato niente. Vabbè, allora, pensiamoci un attimo, Natale è domenica. Domenica. E praticamente mi resta solo la vigilia per cercare di comprare tutti i regali. Sai che mi cresce l'ansia pensare di andare lì la vigilia dove c'è tutto quel casino. Ma poi pazzesco. La vigilia equivale a spendere di più, perché ci sono certi negozi che proprio quella sera lì aumentano i prezzi di una buona percentuale. Quella sera lì, perché uno arriva all'ultimo e dice: ah, mi sono dimenticato di comprare il robot da cucina KitchenAid, me ne vende uno, l'ho visto ieri, costava 400 euro. No, oggi costa 600. Esatto. Vabbè, così, vabbè. In realtà basterebbe avere il coraggio di fare la brutta figura di fare i regali dopo Natale, quando i prezzi crollano, no? Ma cosa fai? Dici: ah, mi sono dimenticato che era Natale. Sì, tu dici: guarda, mi sono dimenticato che era Natale. Accetta comunque questo splendido, che ne so, maglioncino di cashmere, che anche se è il 28 dicembre. Buon Natale. Ma maglioncino di cashmere? Io volevo regalare il robot da cucina. Si accendono, si spengono le luci di Natale e poi non si riaccendono, le avrò montate male. Poi sfrigolano e saltano e nella mano scottano. Si accendono, si spengono le luci di Natale, si incartano e si scartano i pacchi di Natale. Speriamo non sia un pacco, se no ci resto male. Due penne stilografiche e tre cravatte inutili, si incartano e si scartano i pacchi di Natale. Si aprono e si rompono giocattoli a Natale, poi tanto si ricomprano che a Pasqua sarà uguale. Fra bambole meccaniche e scatole di plastica si aprono e si rompono giocattoli a Natale. Si accendono e si spengono le ultime candele, è andata via la luce e non si vede un ma dove è andato l'albero? Crash, porca vacca, eccolo. Non è colpa tua che l'albero lo vedi sempre. No, l'albero è sempre stato lì. Ma ti pare? Ma non è vero, l'albero non è mai stato lì. E sei tu che hai voluto comprare il filino? Vabbè, buon Natale. Comunque lo stress da acquisti natalizi non è nulla al confronto dello stress da mancata attività sessuale. Almeno questo è quanto emerge da uno studio della famigerata Università del Connecticut, ecco, che ha fatto questo. Secondo me tu sei esperto di entrambe le cose, cioè quante cosa c'entra l'Università del Connecticut? Drago, stress da acquisti natalizi che non fai perché sei in ritardo e stress da mancata attività sessuale. Ma cosa ne sai tu? Dai. Guardati, Drago, sei tutto dritto, duro, duro nel senso, ma scheletrico, hai capito? Dolorante. Un po' emaciato. E quindi? Insomma, non ti si può vedere mentre, capito, ridotto così. Guarda, cioè, che dovresti essere un po' più in forma. Tu adesso ti curi. Sì, ma non è che esiste solo il sesso attivo, quindi. Ma cosa vuoi dire? Cos'è George Michael in funivia? No, poliziotto. No, nel senso che puoi fare anche sesso senza muoverti troppo. Ma sei male, così. Insomma, lasciamo perdere questo argomento perché stavamo parlando d'altro. No, tu spiega, se no lasciamo sempre i discorsi a metà, la gente non capisce. Ma il discorso era partito dal Connecticut. Esatto. Quindi torniamo lì. Torniamo lì, va bene. Poi se c'è tempo approfondiamo anche il sesso da fermi, ok? Sì. Allora, il Connecticut. È successo che una studentessa dell'Università del Connecticut si è rivolta al medico dell'università perché soffriva sempre di emicranie, no? In Connecticut. Dopo la visita sembra che il dottore abbia detto: devi fare più sesso. Ma non ho il fidanzato, ha risposto la ragazza. Ci sono qua io, disse il dottore sfilandosi il camice. Vabbè, dai. O il camice. Ma cos'è? La camicia. Ma è la trama di un film porno. Ma no, ma infatti non è andata così. È andata che il dottore le ha consigliato di fare sesso anche se non era fidanzata. Faccia sesso? Fare sesso con gli amici, con dei conoscenti, con chiunque fosse disposto. Con lo zio. No, con lo zio. Zio no, quello non si può. A meno che mi sia acquisito. Vabbè, ma questo è un aneddoto, cioè mica è lo studio dell'università del Connecticut. Sì, infatti, ma da questo aneddoto del Connecticut. Lascia, questo aneddoto ha fatto nascere però uno studio del Connecticut. Uno studio comparativo in cui c'erano due gruppi di ragazze, immagina, no? Che soffrono tutti di emicranie. Sono state divise e per diversi mesi sottoposte a un esperimento. Al primo gruppo erano somministrati dei farmaci contro il mal di testa, mentre al secondo gruppo veniva consigliato di avere rapporti sessuali occasionali. Ma no, al secondo gruppo veniva consigliato, anzi veniva vietato, di prendere medicinali. Il risultato è stato che le ragazze che non prendevano i medicinali ma che avevano un'attività sessuale frequente sono guarite prima di quelle che prendevano farmaci ma non prendevano altro, insomma, capito? E quelle che prendevano farmaci e facevano invece sesso? Ecco, questo è il dato che manca nella notizia. Vedi, il fatto che manchi questo dato dimostra che il tuo studio, o lo studio del Connecticut, è una bufala. Del Connecticut? Sì. Però sei tu che le porti qua queste cose dal Connecticut. E poi in natura non esiste una donna che ha mal di testa e fa sesso nello stesso momento. Vabbè, dai. Drago, si sa, no? No, ti prego, stasera ho capito, mal di testa. Però la notizia me l'ha passata Laura Faggin, che ha sempre mal di testa, quindi... Beh, adesso sa come farselo passare. Si lamenta l'impresario che teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. La crisi. Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia gira un buon attore e vedrà che la crisi passerà. E ora, bambini, e tutti a casa. Cappa, tu l'hai fatto il calcolo di quando andrai in pensione? No. Che sul sito di Repubblica puoi calcolarlo, molto comodo. Io dovrei andare nel 2035. Sembra la data di un film di fantascienza. Infatti, andare in pensione adesso, riuscire ad andare in pensione, è pura fantascienza. 2035. Ma sai che alla fine, Drago, ma chi se ne frega? No? Ma perché la pensione è la fine della vita, no? Mica può essere lo scopo. Vabbè. Se uno come scopo ha quello di andare in pensione, è giusto che arrivi qualcuno dall'alto a fargli cambiare i progetti. Ma che ne sai? Tu parli perché sei giovane, fai un lavoro che al massimo ti affatica gli occhi per via del computer. Ma dai, prova a fare sto discorso a un muratore di 63 anni che tutti i santi giorni scarica dei mattoni. Sì, ma infatti la mia era una provocazione gratuita, ne sono conscio. Ah. Però sull'argomento non ho molto da dire. Quindi acquisto questo fare un po' così mellifluo. Faccio finta che non mi riguardi. Facciamo così e andiamo bene. A forza di non interessarsi, guarda cosa è successo. Cosa è successo? Quando il debito pubblico saliva e George Michael passava il Natale a Saas Fee, noi ce ne fregavamo perché non ci riguardava. Ma eravamo troppo giovani. D'accordo, ma quando nel 94 abbiamo votato per Silvio, te lo ricordi? Votato chi? No, Silvio, quando ma abbiamo scherzi. Votato per Silvio. Ma... Non si sa mai, l'hanno votato in tanti, sai com'è? Ma io no. Nemmeno io, però Silvio vinceva le elezioni e vabbè, abbiamo altro da fare, non ci occupiamo nemmeno di quello, è andata così. Sembra sempre che niente ci riguarda e poi dopo anni ci accorgiamo che tutto ha conseguenze su tutto. E quindi? No, niente. Aspettiamo che diminuisca il traffico, adesso poi ce ne andiamo a casa. Cosa devo dire? E tra l'altro oggi c'è lo sciopero dei mezzi. Quindi... No, è stato la settimana scorsa. Ma forse anche oggi. Buh. Ma tanto noi abbiamo la macchina. Infatti. In sharing. Che però è mia. Vai in sharing. Maledetti Andini. No, vabbè, Andini, questo non è Andino, lo so. Cioè, vabbè, è la tortura a cui sono sottoposti i bambini italiani nella lezione di musica a scuola. Lo so. All'asilo, alla scuola, insegnate l'ukulele. Insegnate l'ukulele e smettetela con questi flauti dolci. Fanno male alle orecchie, soprattutto di chi ascolta. A domani. Chiedo asilo e tradio24.it. Che poi se lo sta... Ah, ma questo non si può fare. Perché se lo spacchi, poi fa...